L'abbiamo accolta positivamente, anche se il primo pensiero è andato e va a tutte le altre vertenze, nel senso che noi eravamo pronti a continuare la mobilitazione per chiedere una decretazione d'urgenza che sospendesse le procedure di licenziamento in atto anche per Whirlpool e per le altre aziende. Questa sentenza cambia i tempi per GKN, ma non cambia la sostanza di tutto quello che abbiamo fatto. Prima di tutto perché l'azienda può riaprire la procedura di licenziamento in qualsiasi momento e lo farà probabilmente, quindi siamo di fronte semplicemente a una presa di tempo. Secondo, perché questa sentenza, che non cade dal cielo, è il risultato di anni di accordi di mobilitazioni, dal contratto nazionale fino ai nostri accordi interni strappati, gli sciogli, accordi che impegnavano l'azienda a un preavviso su eventuali esternalizzazioni di volumi e altro. Questa sentenza non cambia né la sostanza per noi, perché come dicevo non siamo salvi, e soprattutto non cambia il fatto che il governo avrebbe permesso la partenza di quelle lettere di licenziamento e quindi la distruzione di un patrimonio collettivo di 500 posti di lavoro. Il governo, che discute di piani di resilienza, rilancio e contemporaneamente permette la distruzione di una realtà industriale, è evidentemente un governo che fa una discussione ipocrita. Assolutamente. Quando tu dai un esempio, sei in un rapporto che è univoco, tu lo dai e qualcuno deve avere la capacità di raccoglierlo e di coglierlo. Noi ci auguriamo che la manifestazione di sabato abbia parlato a tanti e tanti. Non si parla soltanto delle lavoratrici e dei lavoratori, ma delle studentesse e degli studenti, dei disoccupati e pensionati. Noi dall'inizio abbiamo chiarito con il nostro motto Insorgiamo che non ci facciamo chiudere nell'etichetta della crisi industriale, della solita crisi industriale metalmeccanica che tutti sanno già come andrà a finire, ma che di fatto noi apriamo a tutta la società, alla società degli oppressi evidentemente, per un movimento che cambi i rapporti di forza nel paese. Non lo facciamo perché siamo malati di protagonismo, ma perché riteniamo che questa sia l'unica via per salvare GKN e che però per salvare GKN, se cambia il paese, cambia evidentemente a favore di tutti.